La giacchetta di tutte le destrezze mi pigliava, forte sul suo lato debole, oh, io amo più forse le colline, le fresche brezze, le verdoscuro pinete, che i giganti passi dell'uomo io sogno, il sole d'inverno ed ecco che le fresche brezze mi svegliano d'estate. Non è per te che io grido fuori d'ogni limite, il mio fiato corto contro il lieve e segreto fiato delle stelle. Non è per nessuna mano terrena che mi fece dunque così cieca, se non è per me che sia per te. Non ho il tempo fra le mani, luci e terreni, volti e folle dispietate, volti agonizzanti. Voi vi spingete al chiaro con uno sguardo della luna.